Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. E che settimana? Allora, inutile che vi dica che cosa prevede oggi la cronaca della giornata economico-finanziaria. Se volete possiamo parlare di due buone notizie che sono la conseguenza delle decisioni prese dal Consiglio dei Ministri, quindi gli operai che sono rientrati al lavoro nello stabilimento di Fincantieri di Monfalcone, e anche il fatto che l'Ilva di Taranto abbia riavviato l'altoforno 2 e che arriverà a pieno regime nel giro di qualche giorno, dopo il decreto del governo approvato venerdì e pubblicato sabato in Gazzetta Ufficiale. Però chiaramente queste sono due buone notizie per l'industria italiana, ma tutta la puntata sarà dedicata a questo piccolo referendum che si è tenuto ieri in Grecia e che, alla faccia dei sondaggisti, anche greci, che continuavano a raccontare il testa a testa, un voto che si sarebbe deciso nella notte con l'affluenza degli ultimi dati dalle isole, dai paesi più remoti della Grecia, e invece fin da subito, nell'arco di nemmeno un'ora, si è capito che la vittoria dei no era netta. E cercheremo di capire, da un punto di vista dei mercati finanziari, dal punto di vista della BCE, che è ancora riunita e deve far capire che cosa farà, quanto ha sostanzialmente plafond, come vogliamo chiamarlo, finanziamento di emergenza nei confronti della liquidità di emergenza da fornire alle banche greche, attualmente è bloccata a 89 miliardi di euro. Poco fa si è saputo, i nostri GR24 l'hanno già ricordato, che il limite, le banche saranno chiuse in Grecia fino a venerdì, almeno fino a venerdì 10 giugno, e almeno fino a venerdì 10 giugno verrà mantenuto il limite del prelievo giornaliero di 60 euro agli sportelli automatici. Questo se la Banca Centrale Europea manterrà stabile il livello di liquidità di emergenza attraverso il programma ELA, che è quello di cui sta discutendo la Banca Centrale Europea. C'è chi dice però, attenzione, difficile che la BCE offra la ciambella di salvataggio al mondo bancario greco prima dell'incontro di domani, che è sostanzialmente determinante. L'incontro è praticamente alle 13, c'è il vertice dell'Eurogruppo straordinario, e poi alle 18 il vertice dei capi di Stato e di governo della zona euro. Tra meno di un'ora dovrebbe invece iniziare il vertice bilaterale tra Angela Merkel e François Hollande, e alle 19 una conferenza stampa. Criticato questo vertice perché di nuovo ripropone un asse a due quando il tema è di carattere europeo. Chi ha perso e chi ha vinto? Ma insomma, dai, vedo molti messaggi. Insomma, chi ha vinto sono i no, e questo è ovvio. Chi ha perso? Beh, secondo me ha perso tutti, perché 10 luglio, non 10 giugno. Ma dicevo, chi ha perso? Beh, ha perso la politica estera di Angela Merkel e di Wolfgang Schäuble per quello che riguarda la politica di carattere europeo. Bisogna capire cosa farà adesso l'America e gli Stati Uniti, perché c'è una componente in questa situazione non solo di carattere economico. Ogni tanto cerchiamo anche di volare alto. Certo che c'era tutti i punti della trattativa, l'IVA da mettere sulle isole, l'IVA agevolata. Però a questo punto il problema è talmente politico che diventa di politica estera, non di politica economica interna. E cioè, può la NATO, lo dico molto tranquillamente, permettersi che la sua sponda più orientale vada alla deriva verso Russia o eventualmente anche Cina? Tanto questo è il tema. O volete che ancora ragioniamo dei punti percentuali di IVA su cui si è incartato tutto il dibattito? Poi c'è il fronte mercati, che affronteremo. Meno 3,76% adesso Milano, è la peggiore, non solo, non tanto per un maggiore rischio visto sull'Italia. Lo spread si è mosso, per carità, è arrivato a 165 punti, però 160, il BTP decennale è arrivato al 2,36%. Ma l'Italia perde di più in borsa perché vengono vendute a man bassa le banche che hanno in titoli di Stato in portafoglio, e da noi le banche pesano di più rispetto ad altri paesi sull'indice. Quando tu hai, al di là del Monte dei Paschi che oggi perde il 10,40%, ma UbiBanca meno 6,28, Mediolanum meno 6,15, UniCredit meno 5,5, come Banco Popolare, la Popolare Emilia Romagna che perde 5,30, come Intesa San Paolo, la Pop Milano che perde il 5%, Azimut il 4,90. Beh, è chiaro che il tuo indice sia peggiore degli altri, infatti Milano perde il 3,5%, Parigi l'1,70, Francoforte l'1,30, Londra, che è esclusa da tutti questi ragionamenti, perde solo lo 0,40%, l'America lo 0,20%, l'euro è stabile a 1,1064, obiettivamente poco mosso da questo punto di vista. Tra i titoli che cedono, oltre a quelli bancari, cito anche, così chiudiamo l'aggiornamento, Enel che perde il 3,5% come Telecom Italia, Mediaset perde il 3% come Mediobanca, di positivo c'è ST Microelectronics più 2,40%, Ansaldo più 0,20%. Allora, la giornata in borsa è brutta, non è bruttissima, andò peggio probabilmente il lunedì successivo all'annuncio del referendum, siamo su quei livelli, però, ripeto, concentrarsi solo sul fronte trattative economiche e andamento dei mercati sarebbe molto limitativo. Con questo voto ha una ripercussione politica immediata e anche di questo parleremo. C'è da capire che cosa farà, ripeto, la Banca Centrale Europea, se prenderà tempo e attenderà di capire l'esito del Consiglio di domani tra i capi di Stato e di Governo. I perdenti sono comunque anche i greci in questo momento dal punto di vista della vita quotidiana, sì, però attenzione, la palla è tornata prepotentemente in mano di Bruxelles, o meglio il cerino, se volete, è stato ridato a Bruxelles. Nel frattempo si è dimesso il ministro Varoufakis e si è dimesso perché come ha spiegato vuole agevolare, rendere più facili le trattative con Bruxelles e con le autorità, e quindi BCE, Fondo Monetario, e quindi il suo è una dimissione non perché avesse perso, hanno stravinto, però per lasciare spazio a trattative. E infatti è stato nominato Euclid Tsakalotos come nuovo ministro delle finanze al posto di Varoufakis, è anche lui giovane, 1960, un cinquantenne, nato a Rotterdam, e come Varoufakis anche lui ha studiato principalmente all'estero, si è formato a Oxford. Interessanti questi profili, anche se avessimo tempo, questi profili analoghi di questi economisti greci. Membro del comitato centrale di Siriza, è deputato dal 2012 e insegna economia all'Università di Atene. Viene descritto come sicuramente con dei modi meno effervescenti, di Varoufakis, che era anche molto, diciamo, hollywoodiano, plateale, però non meno drastico e radicale nella critica alle ricette economiche liberiste che hanno creato la crisi finanziaria mondiale, e non è meno critico e drastico di Varoufakis per quello che riguarda il tema del debito greco, che il nuovo ministro delle finanze Tsakalotos appunto ritiene da ristrutturare, ritiene che questo sia il cuore della crisi greca. Questo per quello che riguarda gli aggiornamenti. C'è un'ultima agenzia: i mezzi pubblici di Atene in tutta l'Attica saranno gratuiti per un'altra settimana, lo ha annunciato il vice ministro dei trasporti, quindi bus, tram, metropolitane, treni regionali saranno gratis fino al venerdì 10 luglio, questo per aiutare i cittadini alle prese con l'assenza di liquidità. 60 euro al mese, obiettivamente, alla settimana, sono pochi. Alcuni continuano a scrivermi se la Grecia non convenga fallire. Sì, abbiamo dichiarazioni oggi di ogni genere, a parte la Lagarde, che insomma, l'unica cosa che ha mantenuto stabile la Lagarde in queste settimane è la sua acconciatura, perché ha cambiato idea su tutto il Fondo Monetario. Prima era favorevole, aveva ammesso di aver sbagliato approccio, poi invece è risultato anche più duro di Bruxelles. Ma a parte, dicevo, questo, le dichiarazioni adesso le leggeremo. Ma c'è di tutto, da Dombrovskis che dice il posto era e resta della Grecia era e resta in Europa, però poi aggiunge il no rende le cose più complicate, e poi non c'è una facile via di uscita dalla crisi. Insomma, anche oggi dall'Europa poche idee, ma confuse. Dombrovskis. La Commissione europea prende atto del risultato del referendum svolto ieri in Grecia. Rispettiamo la scelta democratica del popolo greco. Purtroppo la vittoria del no amplia il gap tra la Grecia e gli altri paesi della zona euro. Non c'è una soluzione facile per uscire da questa crisi. Si è già perso troppo tempo e non sono state colte molte opportunità. La Commissione è pronta a continuare a lavorare con la Grecia, ma per essere chiari, non potrà essere presa nessuna decisione in assenza di un mandato da parte dell'Eurogruppo, che si riunirà di nuovo domani. Il posto della Grecia è e rimane nell'Eurozona, ma per risolvere questa difficile situazione è necessario che entrambe le parti operino in modo responsabile nell'interesse del popolo greco. Appunto il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, che è lettone, nonostante il cognome, è meglio precisarlo. Alcuni ascoltatori vogliono che ricordi Giuseppe Bortolussi, per anni numero uno della CGIA di Mestre, è scomparso, lo ricordiamo, l'abbiamo avuto anche il nostro ospite, le mitiche statistiche della CGIA di Mestre, mai capimmo la velocità e la capacità di elaborare questi dati, però sicuramente, se non ricordo male, lui citava il fatto di essere comparso almeno 1400 volte sulle agenzie di stampa. E lo ricordiamo, ci mancherebbe, anche se oggi, ripeto, tutta la puntata è praticamente sulla Grecia. A questo proposito c'è un commento, come sempre, per i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi è del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli, ed è proprio sugli effetti delle dimissioni di Varoufakis. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. L'annuncio a sorpresa delle dimissioni del ministro Varoufakis, giunto in mattinata a poche ore dal successo netto del no al referendum greco, ha placato i mercati per qualche ora, ma la tendenza, la volatilità e il nervosismo legati alla questione greca sono tutt'altro che finiti. Le borse accusano il colpo, lo spread è risalito, anche se non per fortuna a livelli irrazionali, dettati da paura o peggio da panico. Il bond a due anni della Grecia oggi paga un tasso di interesse intorno al 50%, ciò che significa che i mercati hanno già acquisito un default tecnico di quello Stato. Tuttavia l'uscita di scena del ministro, considerato dai suoi colleghi europei come incompatibile, se non addirittura dilettante, potrebbe spianare la strada a una migliore interlocuzione tra i partner, anche se di orientamenti diversi. La mossa voluta da Tsipras è un segnale distensivo che va nella direzione auspicata dai partner tedeschi per primi. Ma l'altro passo in avanti evidentemente lo deve fare l'Europa. Un'Europa che sia orientata allo sviluppo, alla crescita, alla messa a punto di un vero piano di investimenti e di una strategia che alla fine possa affrontare a forme di condivisione del debito. È stata dilettantesca la battaglia un po' narcisista che Varoufakis ha voluto portare al tavolo dell'Eurogruppo, ma è pavloviana oggi e fuori dalla storia la risposta di quell'Europa che si affida ai summit franco-tedeschi, come è stata l'immediata autoconvocazione di un vertice tra Merkel e Hollande, come fossero i Dioscuri a presidio della governance europea. L'Europa che si riunisce domani invece con l'Eurogruppo dovrà battere un colpo collegiale, unito e non scontato, per segnare una nuova strategia del vivere e crescere insieme. Altrimenti l'Europa come la conoscevamo e come la volevamo vedere progredire e crescere è finita, sepolta nelle urne da quei no disperati e orgogliosi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, d'accordissimo con Alberto Rioli, già vi accennavamo prima che onestamente, se la risposta deve essere un altro vertice Merkel-Hollande e questa è la risposta che dovrebbe far sentire gli altri paesi dentro la casa unica europea, non ci siamo, nel senso che aspetta domani o convoca un vertice straordinario oggi, ma con tutti, cioè cosa, che senso ha questo vertice due franco-tedesco? Ma andiamo avanti con gli altri temi che riguardano sempre la Grecia. Vedo molti, tantissimi messaggi, alcuni che dicono no, facciamola pagare i greci, cacciamoli dall'Europa, hanno visto sopra le loro possibilità. Sì, però attenzione, il problema non è, tutti siamo d'accordo che la Grecia non potesse farla franca, nel senso di dire beh scusatemi, ho truccato i conti e adesso chi se ne frega. Il problema è come la fai pagare o gliela fai pagare. Abbiamo detto molte volte, in tempi non sospetti, era il 2011, se tu umili tuo figlio non studia, lo punisci, fai bene, sei un bravo padre. se lo umili, questo se ne va, scappa da scuola, capito? Non va più a scuola, cioè ottiene l'effetto esattamente opposto rispetto a quello che ti riposto. Fummo facilissimi profeti nel 2011. Ebbene, l'umiliazione greca di un popolo che, come ricordo oggi Adriana Ceretelli, l'avremo ospite più avanti, era all'80% filo europeista e filo euro, beh, questo con un continua umiliazione, devo dire anche durante il referendum, forse col senno di poi qualche silenzio in più da parte di Schäuble, Stefan Seibert e Angela Merkel, avrebbe forse aiutato un po' di più il sì, perché è sembrato dire votate sì, se no vi leviamo i soldi e vai a toccare l'orgoglio greco. Comunque, tutta la vicenda è stata gestita nel peggio dei modi possibili. Allora, siamo in collegamento intanto con Francoforte, dove c'è il corrispondente del Sole 24 Ore Alessandro Merli, poi parleremo anche di borsa che continua a peggiorare, meno 3,71% nel finale. Alessandro Merli, buonasera. Ciao Alessandro. Alessandro, ci sente da Francoforte? Sì, buonasera. Eccoci. Io vi sento. Perfetto, dunque nulla di deciso, c'è chi dice che la BCE comunque prenderà tempo perché non vuole bruciare il vertice straordinario di domani con i capi di Stato e di Governo, che se la BCE per esempio aumentasse il tetto dell'ELA, della liquidità di emergenza, di fatto offrirebbe un salvagente alle banche greche, quindi di fatto supererebbe a destra il vertice politico di domani, sei d'accordo? Ma diciamo che se la BCE si atterrà alla linea che ha tenuto in questo, ecco, probabilmente lascerà tutto invariato. La tesi di Draghi è da tempo che chi deve decidere se la Grecia resta o non resta nell'euro sono i politici, cioè i governi sia della Grecia ma anche degli altri 18 paesi. Non può essere lui che è un... per quanto importante eurocrate non eletto, che sta Draghi finora si è comportato in questo modo, di tenere attaccato seppure un tenue filo in modo da tenere in vita le banche greche. Se oggi dovesse alzare il tetto alla liquidità di emergenza, vorrebbe dire che dà un premio a una cosa che non c'è, cioè a un miglioramento della situazione in Grecia che non c'è. Semmai si potrebbe argomentare che c'è stato un peggioramento, non un miglioramento. D'altra parte, se invece Draghi decidesse di staccare questa spina, e cioè di sospendere l'ELA oppure di introdurre degli scarti di garanzia, il cosiddetto haircut più alto, di fatto sarebbe lui a decretare l'uscita della Grecia dall'euro. Draghi non vuole fare, indipendentemente dal merito della questione, né l'una cosa né l'altra, perché la sua teoria o la sua tesi è che è una decisione che spetta ai politici e non a lui. Quindi io credo che aspetterà di avere una copertura politica. Chiaro. Poi la decisione è un ragionamento in fondo non sbagliato, soprattutto considerato che è stato fatto appello alla democrazia con il referendum eccetera. A questo punto non si vede perché un funzionario, chiamiamolo così, seppure di altissimo livello, non democraticamente eletto, deve essere lui a decidere autonomamente se la Grecia deve o no stare nell'euro. I politici si assumono la loro responsabilità, fino adesso hanno cercato di evitare di scansare questa decisione, ma nel momento in cui in un modo o nell'altro dovranno pronunciarsi. A quanto risulta, ma Draghi ha anche parlato con Tsipras, Tsipras lo ha chiamato, non so fino a che punto però un'eventuale, diciamo, perorazione di Tsipras per avere più liquidità alle banche greche possa aver funzionato, nel senso che comunque Draghi aspetta di vedere qualche... Ma la tua descrizione è chiarissima e devo dire è anche piena di senso come interpretazione di quello che vorrebbe fare Draghi. E cioè, lui dice, scusatemi, non siete riusciti a risolvere voi politici, Tsipras con Juncker e con la Merkel, diciamo, dietro le quinte, neanche tanto dietro le quinte, anzi molto sul palco con Schäuble, perché volete lasciare il cerino a me adesso, che tra l'altro verrebbe accusato, in questo hai ragione, visto che il voto del referendum ha giustamente questa grossa connotazione di ricorso alla democrazia, ricorso alla politica, verrebbe accusato di essere il classico banchiere tecnocrata che se ne frega del risultato elettorale, della parte politica, e stacca la spina alla Grecia, oppure peggio ancora la salva. Risulta però, secondo le associazioni delle banche greche, che la Grecia abbia solo 1 miliardo di euro a disposizione, che si sarebbero esauriti già oggi se il tetto al prelievo di 60 euro al giorno non fosse stato prorogato fino a venerdì. Quindi, Alessandro, non c'è moltissimo tempo, cioè, ho capito, domani c'è il Consiglio di dei capi di Stato e di Governo, andrà avanti fino a tardi, può arrivare fino a quando? A venerdì stesso? Ma io credo che appunto Draghi aspetti un segnale dei politici. Leggo delle notizie provenienti da Atene, della quale non conosco l'attendibilità al 100%, ma che mi sembrano abbastanza sensate, che le banche avrebbero concordato con il governo greco di restare a venerdì. Parliamoci chiaro, per confermare l'ELA, questi soldi, questi famosi 89 miliardi dell'ELA, sono già stati dati alle banche e sono anche già usciti dalle banche. Quindi, certo, diciamo, per far riaprire le banche, come prometteva Varoufakis, l'ormai ex ministro Varoufakis, prima del referendum, nella giornata di oggi o di la BCE dovrebbe fare un aumento sostanzioso dell'ELA, e francamente sarebbe un po' strano che fino a venerdì hanno tenuto. C'è un referendum che boccia un'ipotesi di accordo con i creditori e la BCE improvvisamente alza questo chiarissimo. Senza accordo politico, esatto, mi sembra che, esatto, questa cosa non vada. Anche perché verrebbe impallinato o in un modo o nell'altro, nel senso che verrebbe impallinato dai tedeschi e dai paesi, diciamo, del rigore satelliti. Cioè, tu non puoi farlo. Oggi già noi era detto no, la BCE non può muoversi in quel modo, o verrebbe impallinato a tutto il resto del mondo se staccasse lui la spina alla Grecia. Grazie a Alessandro Melli per questo, perché ripeto, dalla BCE non sono arrivate notizie, ma alla luce anche di quanto ricordava il corrispondente del Sole 24 Ore a Francoforte, è probabile che Draghi prenderà tempo. Nel ringraziare Alessandro Melli, saluto invece per averci raggiunto in collegamento il dottor Alberto Gallo, che è responsabile di ricerca macro per la banca RBS, Royal Bank of Scotland, in collegamento con noi da Londra. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Gallo, ha ascoltato le parole del corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Intanto vorrei sapere se anche lei è d'accordo, mentre Milano va a chiudere sui minimi meno 4% adesso, prego. Vediamo dei titoli adesso appena freschi che dicono che la BCE non dovrebbe cambiare niente nella sua, diciamo, linea di credito alle banche greche, che è anche un po' quello che ci aspettiamo, cioè che la ELA rimanga costante, la linea di credito alle banche greche rimanga costante a 89 miliardi di euro, e che la BCE continui ad avere una posizione neutrale in queste negoziazioni. In altre parole, Draghi non staccherà la spina e non sarà la persona a decidere, non sarà lui a decidere le sorti della Grecia o ad accelerarne la situazione, che già sta peggiorando. Però questo potrebbe cambiare se, diciamo, più avanti nel mese la Grecia dovesse fallire, dovesse non pagare il 20 luglio una scadenza di 3,5 miliardi di euro che deve alla BCE, alla BCE e ad altre, certo, banche centrali. Quindi manca poco. Ma il 20 luglio è dietro l'angolo, perché come spiegava bene Alessandro Melli, Draghi vuole l'ombrello, la copertura, la decisione politica, e ha ragione, lui non fa il politico, ci sono persone elette per decidere e trovare gli accordi. Lei personalmente è, come diciamo, analista, rimasto sorpreso dal voto? Sono, diciamo, che sono stato sorpreso un pochino dal voto, perché i sondaggi erano più famosi testa a testa, sì. Però comunque la cosa che mi ha sorpreso di più oggi è la reazione dei mercati, che è stata abbastanza calma, a parte, diciamo, l'azionario, ma sull'obbligazionario, quindi sui BTP o sulle obbligazioni di Stato spagnole, abbiamo visto o il Portogallo, abbiamo visto quasi nessun movimento. Quindi il mercato è abbastanza ancora ottimista su un accordo, oppure non sta reagendo molto diciamo, al panico che invece abbiamo visto nell'azionario. Questo è importante perché diciamo non dà quella quel senso di fretta, di urgenza che potrebbe esserci per esempio negli altri paesi a accedere, e quindi ci fa capire che i creditori, la Germania, possono ancora mantenere una linea dura. D'altro canto ci sono state anche delle notizie positive, le dimissioni del ministro delle finanze per esempio potrebbero agevolare un accordo, perché lui era una figura molto molto singolare e non ben voluta nell'Eurogruppo, quindi forse la proposta greca che dovrebbe arrivare questo pomeriggio potrebbe dare qualche spiraglio, ma si parla comunque di ristrutturazione del debito, una cosa che di cui la Grecia ha bisogno, ma ecco, ma la vostra posizione tavolo. Come Royal Bank of Scotland e anche insomma quelle che raccoglie nella City londinese, qual è? Perché al di là dell'opinione pubblica britannica, da sempre molto scettica e fredda sull'Europa, ma dal punto di vista anche dei mercati, è che a questo punto sia meglio ristrutturare questo debito. È vero quello che scrivono alcuni ascoltatori, abbiamo spesso ricordato che io non so quanti sapessero che la Grecia aveva truccato i conti, so per certo che alla Grecia venivano vendute, prima che scoppiasse la crisi, armi e sottomarini e quant'altro da produttori francesi e tedeschi, e che le banche francesi e tedesche erano particolarmente esposte nei confronti della Grecia, quindi insomma si erano presi dei bei rischi. Ma la vostra posizione, prego. La Grecia ha bisogno di una ristrutturazione del debito perché è un'economia non competitiva con l'euro a 1,1 contro il dollaro, è un'economia piccola, il 2% dell'eurozona, come una città come Milano, come Düsseldorf in Germania. La ristrutturazione costerebbe intorno ai 140 miliardi di euro se fosse un taglio. Probabilmente non sarà un taglio, ma sarà una combinazione di estensioni e tagli, certo. Quindi potrebbe costare anche di meno, potrebbe costare meno di 100 miliardi. Invece, se ci fosse un'uscita dall'euro, quindi un default su tutte le obbligazioni pubbliche e private, il costo sarebbe maggiore e di circa 240 miliardi di euro, quindi il costo di ristrutturare è minore. Il problema è che crea un incentivo per altri paesi a chiedere la stessa soluzione, come per esempio la Spagna. Esatto, che invece ha fatto riforme e su questo. Quindi da questo punto di vista, attenzione che se uno va a vedere solo i costi economici, ma questo lo spiegammo già nel 2010, ti conviene ristrutturare il debito. Poi c'è l'elemento politico e c'è l'elemento di messaggio. Grazie anche ad Alberto Gallo, responsabile di ricerca macro della banca Royal Bank of Scotland, in collegamento con noi da Londra. Allora, volete sapere se dopo la Ceretelli ci sarà l'uccellaccio Sapelli? Sì, ci sarà. Intanto però meteo e pubblicità. Focus Economia. Stanno arrivando alcune agenzie da Francoforte, alle 18 dovrebbe esserci una conference call, una conferenza telefonica tra i vari membri del board della Banca Centrale Europea e i governatori delle banche centrali dell'area euro. Da quello che si capisce da queste agenzie, che citano fonti chiaramente non fonti ufficiali, la Banca Centrale Europea sarebbe per tenere invariata l'ELA, quindi i soldi di emergenza alle banche greche, che sono 89 miliardi, ma le banche greche li hanno già presi e sono già uscite queste banche. Dicevo, sarebbe per non fare nuovi interventi almeno fino a mercoledì, ritenendo che fino a mercoledì le banche greche abbiano autonomia e liquidità sufficiente. Mercoledì e dopodomani, faccio notare. Comunque, adesso inizia una pagina, vi leggo la borsa e poi il binomio barometro Ceretelli, la editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles, e l'uccellaccio Sapelli ci accompagnerà fino alle 18.30. Intanto la borsa non serve commento oggi, purtroppo la chiusura di Milano è stata sui minimi, meno 4%, Parigi meno 2, Francoforte meno 1,5. La borsa nostra perde 2 punti in più in media rispetto alle altre europee per via dei titoli bancari che pesano molto e sono stati particolarmente venduti, per un ragionamento che si va a vendere i titoli che hanno in pancia titoli di Stato, poi erano cresciute comunque le banche. Allora, Monte dei Paschi più 1,50, scusa, magari Monte dei Paschi meno 11,50, Banco Popolare meno 6,60, Mediolanum meno 6,5 come Ubibanca. Il 6% lo ha perso Unicredit, il 6% è il calo anche di Popolare Emilia Romagna e di Intesa San Paolo. Azimut meno 5,50, Pop Milano meno 5,50 anch'essa. Chiudiamo col mondo bancario con Mediobanca che perde il 3,30% come le generali. Male tra i non bancari anche Enel meno 4,20%, Telecom Italia meno 4%, Exor meno 3,60%, Eni meno 3,5%, Tenaris meno 3,20% come Atlantia. Mi fermo su chi ha perso almeno il 3%, cioè Saipem, Prismian e A2A. Di positivo è Steam Microelectronics più 1,70%. Percento e Ansaldo STS invariata. Euro a quota 1,10,75, quindi poco mosso l'euro. Devo dire che gli Stati Uniti in questo momento come borsa, il Dow Jones perde lo 0,20, Londra che è fuori da tutti, diciamo, i ragionamenti, le tensioni sulla Grecia, non aderendo all'euro, perde lo 0,70%, quindi la metà rispetto a Francoforte, un terzo rispetto a Parigi e siamo a un quinto rispetto sostanzialmente a Milano, che perde appunto il 4% e ritorna a 21.600 punti. Dopo il traffico, oggi su Sole 24 Ore, il commento, l'editoriale di Adriana Ceretelli, l'Europa eviti il suicidio collettivo. Focus Economia. Minuti. Allora, mi taccio, nel senso che il barometro oggi possiamo usarlo per altre cose, barometro su quello che potrebbe capitare domani quando si incontrano i capi di Stato e di Governo dell'area euro, barometro su quello che potrebbe accadere oggi nell'incontro Hollande-Merkel che inizierà fra 20 minuti con conferenza stampa verso le 19. Non lo so, barometro Ceretelli, questa è l'unica certezza che ho. Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Oh, bella allegra, eh? Cioè... no, non è giornata. Non è giornata. Allora, l'Europa eviti il suicidio collettivo. Molto più che la vittoria netta di Alexis Tsipras è la sconfitta bruciante e clamorosa dell'Europa e dell'area euro, dell'eurozona. Uno shock che alla lunga potrebbe avere conseguenze ancora più devastanti di quello che esattamente 10 anni fa vide a sorpresa Francia e Olanda bocciare per referendum il progetto di Costituzione europea. Allora, e tu poi ricordi, questo è l'inizio del tuo editoriale di oggi sul Sole 24 Ore, ricordi come il popolo greco fosse, assieme a quello italiano fosse più europeista, l'80%, poi dopo 5 anni di austerity i risultati si sono visti. Dici la tua idea, intanto dici come butta il barometro e poi le tappe, perché abbiamo capito con Alessandro Melli che la BCE, finché non ha la copertura politica o in un senso o nell'altro, né dà più soldi né rivuole i soldi indietro e chiude i rubinetti e stacca la spina, vuole la decisione politica. Quindi Adriana, quindi il problema è capire quale sarà la decisione politica, e in questo momento il barometro, non Ceretelli, ma il barometro europeo purtroppo va verso il pessimo tempo, nel senso che la tentazione è forte di scaricare la Grecia. Cioè di scaricare... Cioè in sostanza di staccare la spina, lasciare che le cose vadano per il loro verso, cioè al fallimento, e poi fare un piano umanitario, come lo chiama il Presidente del Parlamento europeo, per aiutare la Grecia alla miseria, non so, come se fosse il Burundi o il Botswana, insomma. Sì, perché Juncker ha detto avremo un piano per aiutare i vecchi, i bambini, ho capito. Certo, sì, cioè questa mi sembra che sia purtroppo una delle idee sul campo e non quella, diciamo, che in questo momento ha meno consensi. Molto dipenderà stasera da quello che succede nell'incontro Merkel-Hollande, ma se Hollande fosse un leader, diciamo, come dire, punto, se Hollande fosse un leader forte, ecco, potrebbe diciamo essere un interlocutore autentico della Merkel. Io temo che si limiterà a registrare le decisioni della Merkel. Ora, la Merkel non vuole passare alla storia come il cancelliere che ha liquidato l'Europa, perché in definitiva la Grecia aprirebbe la strada a un euro non più irreversibile, e probabilmente, visto il clima e il sentimento degli europei in questo momento verso l'Europa, questo potrebbe diventare, e i movimenti naturalmente anti euroscettici, populisti eccetera, che prosperano in Europa, potrebbe questo diventare il momento del primo sfilacciamento che a poco porterebbe al resto. Non ci dimentichiamo che c'è pure il problema della Gran Bretagna, che non riguarda naturalmente l'euro ma riguarda l'Europa, ed è un altro sfilacciamento. Non ci dimentichiamo le politiche di immigrazione, che non decolleranno proprio perché non c'è molta voglia di Europa, di condivisione eccetera eccetera. Quindi in sostanza in questo momento l'Europa ha una politica molto semplicistica: questo paese non mi fa comodo, meglio scaricarlo con un po' di aiuti umanitari. Non è esattamente lo spirito europeo, non è la solidarietà, però questa è l'Europa che passa il convento. La Merkel, che pure, dicevo, non vuole passare alla storia come il cancelliere che ha liquidato l'Europa, al tempo stesso non vuole neanche venire affossata per colpa dell'Europa nel proprio paese. Lei, la Merkel, ha una fronda contraria alla sua politica, diciamo, di salvataggio della Grecia, di almeno un centinaio di deputati, e naturalmente potrebbe compensare queste diserzioni con l'alleanza con la con i socialdemocratici. Però naturalmente vorrebbe dire che il suo partito non la segue più, quindi non sarebbe più il cancelliere di prima. Insomma, nessuno vuole rischiare niente per la Grecia. La Grecia non ha fatto molto per rendersi simpatica da quando ha cambiato governo, ma detto questo è stata anche vittima di un tiramolla che forse aveva fin dall'inizio dei retropensieri. Se è vero, se sono vere questi retroscena, queste storie che riguardano il lontano ormai 3 anni fa, 2012, in cui sembra che Schäuble, l'attuale ministro delle finanze, confidasse a Tim Geithner, allora segretario americano, della sua voglia, insomma, di selezionare un po' meglio i partner dell'euro, Grecia in testa. Quindi è un momentaccio. In questo momento il mio barometro mi dice che cioè io vedo nero, ma spero di sbagliarmi, perché spero sempre che poi alla fine il buonsenso prevalga. Però diciamo che in questo momento lei, certamente Tsipras ha fatto un gesto verso l'Europa liquidando Varoufakis. Beh, o anche Varoufakis, cioè comunque che se n'è andato, adesso non so se è stato Tsipras a liquidarlo. Pare che abbia chiesto Tsipras, ma anche Varoufakis è stato estremamente responsabile, ha preso e se n'è andato. Ecco, non vedo questo stesso approccio, diciamo, per ora in Europa. Naturalmente c'è un gesto distensivo. Non escludo mai le sorprese, spero che poi il vertice di domani ce le riservi e positive, perché mi sembra che i segnali che arrivano dai mercati non siano certo di quelli che invitano a Grexit. Esatto. Allora, però qui a mio avviso la situazione sta diventando, dalle trattative esasperanti sui punti di IVA, con delle colpe anche greche nel non voler cambiare la situazione, ci sono intere categorie che vengono esentate ingiustamente, però la situazione ormai è scivolata da una... Abbiamo visto una specie di schizofrenia. In Europa Bruxelles si continuava a trattare come se il problema fosse quanti punti di IVA hai, quante aliquote IVA metti, cosa fai con l'età pensionabile, mentre a noi sembrava chiaro che tutto stesse deragliando o slittando su un tema squisitamente politico, per cui l'accordo poi lo fai, ma sono dettagli quelli. Ormai vediamo anche vari editorialisti, penso a Pinchetti, dire, o economisti, ma come, la Germania non ha mai pagato i suoi debiti né dopo la prima né dopo la seconda guerra mondiale, cioè si sta rievocando la prima e la seconda guerra mondiale. Non pensi che a questo punto serva una forte, fortissima, un minuto per la tua risposta, iniziativa politica, e tutto il resto arriverà dopo, come le vettovaglie di Napoleone? Prego. Certo, ma sono assolutamente d'accordo. Il problema greco, io lo continuo a scrivere, lo ripeto fino alla noia, è un problema da 2% del PIL, e i mercati come potranno credere ancora nell'euro che non ha saputo risolvere un problema del 2% del suo PIL? Ma il problema è l'iniziativa politica da parte di chi? La Merkel, come dicevo, ha le mani legate dalla situazione interna al suo partito e non ha il coraggio che ebbe Kohl quando fece l'amministrazione, che aveva contro il mondo, contro la Bundesbank, contro i tedeschi, e disse: sapete cosa c'è? Io cambio il marco uno a uno, e fece la riunificazione ed ebbe il successo che ebbe. Quindi qui non c'è nessuno di questa statura. Non ci sono leader di questo tipo, per questo temo il peggio. Ho capito il tuo ragionamento. L'assenza, diciamo, di leader e di leadership genera mostri a livello europeo. Grazie intanto Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. Dopo il GR24 cercheremo di capire allora quale sia la partita politica con l'economista Giulio Sapelli. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Vorrei un'Europa dove anche le donne possano far sentire la loro voce. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale, ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni in questa puntata quasi monografica sulla Grecia, ma non poteva essere altrimenti. Mi fate notare che non ho dato i migliori e i peggiori, va bene, per carità. Digital Brothers più 5% il miglior titolo, Seat pagine gialle più 2,60, Tech Value più 2,20, Key Group più 1,80. I peggiori forse non ha nemmeno senso a ricordarli, comunque sono la maggior parte dei bancari. Monte dei Paschi ha perso l'11,50%, il credito valtellinese è 7,26, e poi Banco Popolare meno 6,60, Ubibanca meno 6,5. C'è anche Gruppo Rizzoli, Corriere della Sera, che oggi ha perso parecchio, il 7,40%. L'euro è sempre a quota 1,1085. Ripeto, gli Stati Uniti hanno una giornata leggermente debole sul Dow Jones, meno 0,20%, ma nulla di paragonabile a quello che è avvenuto in Europa, ma soprattutto in Italia, perché a questo punto il calo di Piazza Affari è doppio rispetto a quello di Parigi. Milano ha perso il 4%, Parigi il 2%, ed è più che doppio, quasi triplo rispetto a Francoforte, che ha perso l'1,5%. Allora, ci sono decine di messaggi che arrivano praticamente ogni minuto. Alcuni dicono no, è giusto cacciare la Grecia, altri dicono questo è, siamo finiti in questo vicolo cieco per colpa di politici incapaci. Direi che a questo punto l'analisi, come già si diceva prima con Adriana Ceretelli, è tutta di carattere politico, non più sul testo dell'accordo, su cosa si può chiedere alla Grecia. Quelli sono tecnicismi. Alle 19 vedremo se ci sarà la conferenza stampa di Angela Merkel, dovrebbe esserci, e François Hollande. Domani, appunto, prima l'Eurogruppo straordinario alle 13, poi alle 18 il vertice dei capi di Stato e di governo. Restiamo quindi in questa prospettiva anche di carattere politico, cercando di guardarla dall'alto, in compagnia di un noto uccellaccio. Allora, come alcuni di voi avranno capito, sta volando sopra di noi, sopra le macerie, oserei dire, di un'Europa che forse non sarà più la stessa. È inutile essere troppo enfatici, però bisogna anche riconoscere che qui hanno perso tutti e due. Lo dicevamo prima, ha perso la Grecia, che si trova in una grossa difficoltà economica, ha perso l'Europa, hanno vinto i no, questo è fuori discussione. Ma dicevo, sta volando su queste macerie l'economista Giulio Sapelli, che insegna storia economica alla Statale di Milano. Buonasera Sapelli. Buonasera carissimo amico. Su quali ci sono macerie? Lei che vede tutte le cose dall'alto, sono macerie sì, o sta... Sì, sono delle macerie nel Mediterraneo che si confondono con le isole dell'Egeo, ma meno di quanto avessi pensato. Nel senso che il 60% di voti passa per il no, insomma, abbiamo visto, come dicevamo prima, anche sto giro i sondaggisti non hanno beccata una, testa a testa fino all'ultimo, ma che testa a testa? Dopo un'ora era già tutto scritto ieri sera, però... Lei pensava anche peggio? No, io pensavo francamente che ci fosse stato, credo come tutti, un testa a testa. E un distacco di questo tipo. Ho visto quel poco che si possa capire, però, la distribuzione del voto. E mi pare che è una distribuzione per classi sociali nettissima. Cioè, mi pare che Atene, naturalmente, sia stata una più alta prevalenza del sì, e però... nelle isole, nelle parti più povere della Grecia, il no ha stravinto. Lei, adesso noi vorrei anche raccontare questo nuovo ministro delle finanze che ha preso posto di Varoufakis, Euclid Tsakalotos, è del 1960, quindi relativamente giovane, nato a Rotterdam, ha studiato principalmente all'estero, in particolare a Oxford, è deputato dal 2012, è membro del comitato centrale di Siriza, insegna economia all'Università di Atene, è tornato a vivere in Grecia nel 93, e infatti ha un lieve accento straniero quando parla greco, e al pari di Varoufakis usa molto Twitter e ritiene che il debito greco vada ristrutturato e sia al cuore della crisi ellenica. È meno effervescente, meno hollywoodiano, se vogliamo, di Varoufakis, non ci vuole molto perché lui era molto hollywoodiano, però non è meno drastico e radicale nella critica delle ricette economiche liberiste che, secondo appunto anche Tsakalotos, hanno creato la crisi finanziaria mondiale. Interessante che siano tutti e due relativamente giovani, dei cinquantenni, e si sono formati all'estero. Varoufakis insegnava in Texas, non so se tornerà lì. Ho insegnato anche a Sydney, Varoufakis. Io lo incontrai lì molti anni or sono, a Sydney. Ecco. Beh, sono figli della diaspora greca. Lei sa che la mia rivista scientifica per studiare la Grecia è Hellenic Diaspora, una rivista semestrale che esce a New York, una rivista molto importante di scienze sociali, che articoli che vanno dall'economia alla sociologia, all'antropologia. Anche questo giovane economista, però è un figlio della diaspora, poi lui stesso si è formato all'estero e come molti di questi tornano poi dopo in Grecia. Quindi sì, ma al di là appunto della diaspora, che è importantissima, sappiamo che in Australia c'è una comunità greca che è pari solo a quella italiana come migranti, no? Ma la cosa interessante è che sarà anche più pacato, meno strafottente, forse meno ex cattedra, come veniva accusato di essere Varoufakis quando si incontrava con i colleghi europei. Però mi sembra che non sia meno che la linea sia sempre quella. Guarda che Giorgio Papandreou, il padre di Andrea Papandreou, è stato un grande economista che ha insegnato nelle più prestigiose università americane ed era un post-keynesiano molto di sinistra. Diciamo che quasi tutti questi economisti greci, giovani economisti greci, pochissimi appartengono al mainstream. E sono persone molto più colte degli altri economisti che vediamo tutti i giorni. Però Sapelli, non tenga sulle spine i nostri ascoltatori, perché vedo già molti messaggi. Che cosa succederà adesso? L'incontro Hollande-Merkel è appena iniziato, abbiamo visto una rida di dichiarazioni, perché lo stesso commissario, il vicepresidente della commissione Valdis Dombrovskis, che è lettone, prima aveva detto no, il no rende le cose più complicate, poi ha detto no, il posto della Grecia era e resta in Europa. Poi, sempre Dombrovskis, non c'è una facile via di uscita da questa crisi greca. Certo. Angela Merkel, che ha detto, prima di incontrare Hollande, non vi sono presupposti per nuove trattative, anche se la porta resta sempre aperta. E anche a Berlino subito a dire che il problema non era Varoufakis come persona, ma le posizioni. Schäuble ha detto il taglio del debito non è un problema. Domani, secondo Matteo Renzi, bisognerà trovare nell'Eurogruppo straordinario una via per uscire dall'emergenza nel Consiglio europeo. Ecco, andiamo alla ciccia. Il problema è molto semplice. I problemi economici non si sono mai risolti con decisioni economiche, ma sempre con decisioni politiche. questa questione della Grecia è una questione che non va risolta con politiche economiche, ma con una, con un assunto chiaro. Vogliamo che la Grecia continui a essere il paese che fa parte del fianco sud della NATO, a cui abbiamo venduto alcuni anni fa alcuni miliardi di armamenti di marca francese e tedesca, facendogli pagare un sacco di soldi. Per carità, lei sa che io sono un noto guerrafondaio, quindi non sono assolutamente, non lo dico, posizioni pacifiste, ma con tutto quello che sta capitando in Medio Oriente, con i russi che stanno trattando con la comunità greco-cipriota e turco-cipriota per aprire e poter usare una base navale di appoggio a Cipro, lei pensi che non si trovi un accordo sul problema greco? Ecco, se non si trova un accordo è come il 1914, è come Sarajevo, è come se scoppiasse una guerra mondiale. Devo dire che purtroppo i fanatici ci sono dappertutto, e quindi ci può anche esserci qui, soprattutto in alcuni paesi dove, voglio dire, ancora si crede nelle saghe nordiche ungrofinniche, ci siano fanatici di questo tipo, ma questa soluzione andrà risolta diplomaticamente. Io ho già detto chiaramente la mia, ci vuole fare una conferenza internazionale sulla Grecia. Questo non è un problema di Europa, è un problema che deve vedere seduti attorno a un tavolo l'Europa, non l'Europa 2, Franca Germania, l'Europa, gli Stati Uniti, la Cina e la Russia, e si risolve il problema greco come si faceva nell'Ottocento. Allora, adesso ho il traffico, poi vorrei tornare su questo esempio che lei ha fatto, molto inquietante, di come anche scoppiò per errori, per leggerezza, la prima guerra mondiale, chiaramente usando solo l'esempio su questo. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, anche perché poco fa Adriana Ceretelli ha detto: io ho il timore che poi, quando ci sarà da votare, qualcuno possa incaponirsi e far saltare tutto il banco. Dopo il traffico. Focus Economia. Allora, lei, professor Sapelli, citava la Prima Guerra Mondiale, di cui, ahimè, ricorre il centenario dell'inizio per noi italiani quest'anno. Ora, se ricordo bene quello che ci studiava una volta, mentre la Seconda Guerra Mondiale era ormai nell'area da tempo ed era inevitabile, diciamo così, la prima scoppia per un accidente, rompe la Belle Époque in cui vivevano tutte le potenze occidentali del tempo, e appunto quando Gavrilo Princip uccide, se non ricordo, a Sarajevo l'arciduca Francesco. Ora, secondo lei, chi potrebbe essere adesso il Gavrilo Princip nella vicenda greca, cioè far deflagrare tutto per inerzia, non perché sia ineluttabile, inevitabile? Qui potrebbe essere questo, che dato che abbiamo cambiato il meccanismo di voto della Commissione Europea, non si vota più l'unanimità, e questo ci sembrava un grandissimo passo innanzi, cioè che invece di applicare il principio di maggioranza al Parlamento Europeo, che non conta niente, di lì a non fare nulla, adesso, come lei sa, si applica la Commissione. Può anche darsi che un gruppo di fanatici, per esempio tutti gli stati baltici e sovietici, capitanati dalla Polonia, che ha una posizione molto molto dura, e come tutti i neofiti, eccetera eccetera eccetera, che scatti un voto, per un voto non si approvi un piano di riapertura del negoziato, e che quindi, voglio dire, dato che ci sono tutta una serie di regole barocche, non si riesca, e qui è una questione di tempo, a lavorare in tempo. Può anche darsi che il Fondo Monetario Internazionale, che mi sembra in questi ultimi anni, in questi ultimi giorni, ha avuto degli alti e bassi, voglio dire, la signora Lagarde ha cambiato opinione dall'oggi al domani, no? Voglio dire, prima tutta la critica alla BCE, bisognava fare una politica appunto tipo quella del nostro ministro, del neo ministro greco, e poi improvvisamente, voglio dire, dato che ha dei problemi di successione, ha dei problemi di rielezione, e soprattutto di dover fare i conti con dei soci piuttosto riottosi, ha cambiato opinione. Tutto è nelle mani degli Stati Uniti, insomma, gli Stati Uniti devono tenere benissimo la briglia ai loro cavalli. Però mi dica l'ultima cosa, perché insomma, Chi ha perso e chi ha vinto in questa partita, a questo punto è iniziata 5 anni fa? Ha perso la Merkel in modo clamoroso. Ha perso, mi scusi? La Merkel in un modo clamoroso, perché poco prima aveva detto delle cose molto dure. Insomma, non si può governare a lungo tecnocraticamente contro la volontà dei popoli. Questo è il problema vero. La Merkel ha preso una trambata tremenda. Io, come lei sa, ero contrarissimo al fatto di indire questo referendum, perché pensavo che avrebbe complicato tutte le cose, così come è stato. Ma certo che la signora Merkel non ha fatto i conti con l'onda d'urto che questo risultato avrebbe provocato. E qual è? L'onda d'urto è quello che ha spostato radicalmente il problema greco, come le dicevo poc'anzi, da un problema economico a un problema politico geostrategico. Hai un popolo che è contro tutta la politica economica europea. Lei mi dirà, c'è un popolo e ce ne sono 18. Ecco, voglio vedere se si innesca un meccanismo di referendum in tutti questi stati, che cosa abbiamo. Quindi adesso la signora Merkel deve, e soprattutto il suo avversario interno Schäuble, devono stare ben allerta a come parlano e non devono più fare cose provocatorie e ignobili come questa, di fare una trattativa a due. Un tempo gli incontri a due si facevano riservatamente e segretamente, ma che si vedano pure a due, ma non lo deve sapere nessuno. Ma che tu annunci pubblicamente che ti vedi con la Francia è una continua umiliazione che l'egemonia tedesca infligge a tutti gli altri paesi, è molto grave. Questa è una grande occasione per l'Italia invece, perché l'Italia deve farsi invece portatrice dell'idea, come vi ho già detto, di questa riunione internazionale, che non potrebbe svolgere altro che in Italia. Abbiamo un uomo, una persona attenta e colta come il ministro Gentiloni, che capirebbe subito l'importanza di un approccio di questo tipo. Bisogna riportare la questione sul piano politico internazionale. Basta con questi pallottolieri del debito, no? Ma tu devi 14 miliardi a me, questi sono i conti della serva, no? Ecco, che non hanno mai risolto nessuno. Ma secondo lei è rimasta in un angolo troppo defilata la posizione italiana? Io credo che la posizione italiana doveva avere... Perché il premier Renzi negli ultimi giorni è sembrato allinearsi con Angela Merkel, e il ragionamento è stato: appoggi, diciamo, la Germania sul fronte della fermezza con la Grecia, per poi trattare maggiore flessibilità nei conti. Ma su queste cose, guardi, io credo che la nostra posizione deve essere limpidamente atlantica. Dobbiamo stare in questa partita a fianco degli Stati Uniti e non a fianco della Germania. In questo modo, questo pigliamo due piccioni come una fava, assicuriamo la continuità del governo Renzi, e mi pare che questo paese ne abbia un terribile bisogno, abbiamo bisogno di continuità di governo, e poi facciamo sì che l'Italia possa svolgere un ruolo diplomatico internazionale di mediazione, che non può svolgere se si schiaccia sulle posizioni della Germania. Della mi sembra talmente... Quindi la vera sconfitta per lei è la Merkel e Schäuble, diciamo. Ma non c'è dubbio, si sono presi una tramvata di quelli che ricorderanno Ma questo perché, per ultimo e per concludere, hanno sottovalutato che cosa? Hanno in definitiva un popolo inutilmente, erano convinti di stravincere, non a caso Samaras, che è una persona seria, si è subito dimesso. Questo. Sì, si è dimesso anche Varoufakis, però insomma. Ma si è dimesso Varoufakis con una posizione molto intelligente, come credo che abbia già notato lei, per consentire la trattativa di andare avanti. In questo Varoufakis è un vero uomo politico, prima che essere un economista. Uno non può fare il ministro se è un economista. Mi scusi, ma allora lei sta, per concludere e lasciare andare, lei, professor Sapelli, ma non è che sta volando sulle macerie della politica estera? No, della politica estera tedesca? Dunque, i tedeschi hanno una politica estera soprattutto in Africa, che nessuno sa, ma che io seguo attentamente dall'alto dei cieli, e poi dopo stanno facendo delle cose molto interessanti, di cui non posso parlare perché sono segretate, nel mare del nord, nel mare artico, dove si gioca la nuova partita della politica estera antirussa. E però su questo loro non hanno capito che il fianco sud della NATO è importantissimo, ecco. Loro sono preoccupati soprattutto del nord Europa. L'Italia e gli Stati Uniti, con la Turchia, con la Francia, siamo preoccupati del Mediterraneo, ma è la stessa cosa sull'immigrazione. Guardi che questa questione qui è specularmente la stessa questione che si ripropone sul problema degli immigrati. Quando nell'ultima, uno degli ultimi, come si chiama, le ultime riunioni che fecero appunto al nord, non era all'ordine del giorno la Libia. Ecco. Voli, non so su quali macerie, sulle rovine archeologiche, quelle non sono macerie, quelle sono rovine archeologiche, quelle è un patrimonio dell'umanità, come la Grecia. A naso, però, qui c'è qualche macerie anche sulla politica, diciamo, comunitaria, quantomeno della Germania. Grazie anche a Giulio Sapelli in collegamento con noi, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Noi torniamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.